piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Il sistema che sa tutto e ci comanda, voi decidete che cosa è giusto o sbagliato allo stesso modo in cui decidete cosa fa, ridere oppure no. Tu sei orrendo, Mark. Io? Orrendo? In che modo sei stato orrendo? Mandando il mio video e invitandomi al tuo show. Volevi solamente prenderti gioco di me. Sei come tutti gli altri. Tu non sai un bel niente di me, amico. Che ne dici di un'altra barzelletta? No, ne ho abbastanza delle tue barzellette. Cosa ottieni? Ho detto di no. Se metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia! Chiama la polizia! Te lo dico io cosa ottieni! Chiama la polizia! Ottieni quel cazzo che ti meriti! Parlammo a lungo al tempo che uscì il film Joker di Todd Phillips, di questa figura interessante. Era il prequel di tutte le storie di Batman possibili, in cui la vita travagliata di Joker dà quasi l'idea di una povera vittima della società che diventa comunque un rappresentante delle istanze della voce del popolo, perché compie questa sorta di omicidio rituale, sparando, uccidendo nel cuore del talk show più importante a Gotham City, rivendicando il fatto che lui non vuole essere vittima dei giochi di una sorta di casta che gestisce tutto e tutto vuole determinare. Il film termina con movimenti, penso sia solo la prima parte, adesso ci sarà un seguito di questo film, quindi vedremo anche il giovane Batman come si produrrà in questa lettura. Comunque ci lascia con l'immagine inquietante delle folle che scendono per strada, impersonando in Joker il simbolo vindice della riscossa del popolo, della volontà popolare, della sopraffazione di ogni sistema di mediazione che altro non è che funzionale a un potere oscuro, un potere occulto che si prende gioco di tutte le miserie umane in nome di un profitto, di una gestione. Insomma, Joker già lo indicammo un annetto fa come una sorta di profezia rispetto al sentire generale riguardo all'informazione. Non che le cose siano cambiate molto oggi, però ci piace fare questa trasmissione in cui vorremmo saggiare la sensazione di chi ci ascolta. Può chiamare come sempre l'800240024 rispetto i canali cosiddetti ufficiali dell'informazione. La sensazione che abbiamo un po' tutti noi che ogni giorno ci muoviamo per mediare informazione, per saggiare, per sentire, per raccontare, per ascoltare il racconto degli altri, è che si stia stabilendo sempre di più una visione manichea di chi fa il nostro mestiere, in una trasmissione dedicata ai giornalisti, lo premetto, che esista un grande disegno occulto, quello che viene chiamato Deep State, lo stato oscuro, che in realtà muova tutto e tutto controlli. Quindi noi facciamo parte del meccanismo del grande microchip che in qualche maniera vorrebbe controllare, gestire le masse, ammaestrare, sterminare parte della popolazione per far più spazio a tutti, e andando avanti con tutte le semplificazioni possibili. Ora, la mia non vuole essere una difesa d'ufficio di chi compie l'opera di mediazione quotidiana, ma rendiamoci conto che forse è una visione che può portarci verso derive singolari. Affidare la mediazione alla rete, ai social, alla volontà del popolo, poi alla fine finisce che noi apprezziamo e gestiamo e consideriamo attendibili soltanto quelli che corrispondono al nostro pregiudizio, al nostro punto di vista sulla realtà. Quindi i mediatori affidabili sono quelli che noi, in quali noi ci riconosciamo, gli altri fanno parte tutti di un sistema di venduti, di pregiudicati in partenza, la cui opera di mediazione è senz'altro non efficace. Tutto questo nasce da una sorta di equivoco per cui i giornali dovrebbero essere imparziali, dovrebbero essere degli organi asettici di informazione. Ogni giornale c'ha dietro un suo pensiero. Non sempre vengono rivelate diciamo le radici del pensiero dei giornali. È una maniera molto moderna e ancora molto poco sinceramente applicata, è quella di dire: io la penso così, ti racconto le notizie secondo il mio punto di vista. Sarebbe tutto più facile se dicesse questo. Beh, oggi è una giornata che è importante per l'informazione nel nostro paese, perché esce un nuovo giornale in edicola, cartaceo, fatto di carta, ce l'ho qui in mano e ne sento il fruscio. Sembra un'operazione in sé che è ai margini della follia, perché sappiamo benissimo quanto è in crisi la stampa cartacea. Quindi se oggi qualcuno investe in un nuovo giornale, comunque noi la pensiamo, comunque noi la vediamo, qualunque sia il nostro pregiudizio, il nostro giudizio sulla necessità di aggiungere un nuovo organo di informazione, possiamo che non essere contenti. Più c'è informazione, più ci sono organi di informazione, più noi abbiamo la possibilità comunque di avere uno spettro ampio di lettura rispetto alla realtà che ci circonda. Quindi oggi con piacere ho Stefano Feltri, direttore di Domani in Edicola. Domani in Edicola da questa mattina. Stefano Feltri, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. In Edicola e sul web, perché abbiamo la carta, ma siamo ovviamente anche digitali. Sì, lo stavo per dire, c'è la versione online editorialedomani.it e in edicola Domani, ma la novità vera è che domani è in edicola. E Stefano Feltri lo conoscete, spesso è venuto ospite delle nostre trasmissioni, sia quando era vice direttore di un altro quotidiano, sia quando era presso la Business School dell'Università di Chicago e ci dava delle letture viste dall'America del nostro paese. Adesso nuovamente ritornato in Italia e oggi si avvia a questa avventura. Chiedo ai nostri ascoltatori intanto di partecipare non tanto su quello di cui parleremo, cioè del quotidiano oggi in edicola, ma sul fatto che vorrei capire se voi avete un quotidiano di affezione, avete ancora il quotidiano a cui vi rivolgete, il primo che guardate, il primo che sfogliate, ammesso che ne abbiate uno, o è sufficiente per voi guardare e vedere quello che vi dà la rete, e siete disposti a pagare qualcosa per avere l'informazione in rete, o comunque siete convinti che quello che gratuitamente prendete alla rete è quanto possa essere sufficiente e necessario per avere un'idea di quello che accade nel mondo? Intanto il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Ci tengo a sapere oggi qual è il polso medio del mio pubblico rispetto all'informazione cosiddetta tradizionale, detta anche però in un termine che è diventato dispregiativo, l'informazione mainstream. Qual è la prima accusa che tu ti aspetti che ti arrivi oggi? Non tanto dai colleghi, i colleghi ti guarderanno questa mattina, si faranno molti delle risate, diranno è tutto qui, pensiamo chissà che, oppure lo guarderanno e saranno preoccupati per un nuovo concorrente, oppure lo guarderanno e diranno beh vedi, siamo contenti che c'è qualcun altro che racconta il mondo come noi. Ma il pubblico medio, che è ormai abituato a dire che siamo soltanto una massa di persone al soldo dei potenti, dei ricchi, dei governatori occulti, con il tuo giornale a chi ti rivolgi e soprattutto cosa ti aspetti che ti dicano? Ma io mi rivolgo alle persone che hanno voglia di, diciamo, di capire qualcosa in più, nel senso che secondo me uno dei grandi problemi dell'informazione italiana è che è come una specie di grande camera di eco in cui si ripetono sempre le stesse cose, si commentano sempre le stesse cose, di solito prodotte dal governo. Questa è una tipicità italiana, solo qui per noi l'unica cosa considerata interessante dai giornalisti è la politica, mentre altrove non è così marcata questa cosa. Quindi io mi voglio rivolgere sia a chi ancora va in edicola a comprare i giornali, che sono una minoranza di una minoranza di una minoranza, nel senso che ormai un grande giornale in Italia vende 100.000 copie, che è un numero ridicolo confrontato a quello di anche solo 10 anni fa, però vorrei anche rivolgermi a persone che hanno smesso di comprare i giornali o che non hanno ben chiaro cosa sia un giornale, perché chi ha meno di 25 anni o di 20 anni segue sui social o altrove delle singole persone. L'idea che ci sia un'etichetta collettiva che ne raggruppa alcune e che quindi per questo le rende più interessanti o affidabili è un concetto da ricostruire completamente. E diciamo la missione principale, il modo, poi si può discutere dei temi, tutto quello che si vuole del merito, ma la cosa che vorrei fare è un giornale che si capisce, che sembra una banalità, ma i giornali italiani sono completamente incomprensibili per chi non, non dico per chi non li legge tutti i giorni, ma per chi non li scrive tutti i giorni, nel senso che i pezzi, ecco, c'è un'impressione abbastanza... generale che sì, sicuramente è un mio limite, però vorrei sapere se tu, che hai un respiro internazionale, sei stato in America parecchio tempo, hai visto quello che noi consideriamo un giornalismo che molte volte invidiamo, conosci bene la situazione italiana, sei uscito da un giornale che aveva una sua storia importante, si era ritagliato uno spazio importante, dietro il tuo giornale c'è una storia editoriale che ha fatto molto ragionare, molti pensavano che il tuo fosse il giornale dei fuoriusciti di Repubblica, che non accettavano che Repubblica fosse diventato un giornale troppo poco di sinistra, ma in realtà non hai fatto, diciamo, la raccolta degli ex di Repubblica, hai fatto un giornale per conto tuo, un giornale anche, devo dire, coraggioso, perché è un giornale da leggere, è un giornale che va oltre tutte le astuzie che hanno i giornali per rendersi appetibili, l'infinità dell'uso della grafica, le semplificazioni. Un giornale che, se devi aver voglia di leggertelo, di vedere delle grosse pagine con editoriali scritti, di avere pazienza di leggerlo, diciamo, almeno nella versione cartacea, non è il giornale che tu compri per avere tutti i minimi particolari, tutto quello che accade nel mondo, ma un giornale orientato, tu lo dici, io non mi vergogno di dire e non faccio finta di fare un giornale generalista, un giornale che va a riempire uno spazio che evidentemente consideravi che ancora non fosse sufficientemente riempito. Ecco, se ti puoi immaginare un tuo lettore tipo, a chi ti rivolgi? Perché è un po' difficile pensare che un nuovo giornale, già nella crisi generale che c'è dei quotidiani, vada a ritagliare spazi che sono già occupati. Qual è lo spazio che vedevi non occupato da lettori che pensi di poter soddisfare col tuo giornale? Ma io vedo un vuoto, cioè non c'era, spero, perché ci sia un giornale per persone che hanno, diciamo così, una sensibilità politica, civile, cioè insomma si interessano a qualcosa che non sia né il mero intrattenimento né, come dire, il giornale sportivo, insomma, quindi hanno una sensibilità politica in senso lato, ma che non è semplicemente di militanza o di appartenenza. Diciamo, le questioni ambientali, di cui noi parleremo molto, che fino a qualche anno fa erano considerate una di quelle cose noiosissime di cui nessuno voleva mai occuparsi, sono un po' la sintesi di questo, cioè sono grandi temi complicatissimi che richiedono non soltanto un racconto superficiale o due dichiarazioni di un politico, ma che interessano a tanta gente, e in Italia non sono considerate, diciamo, politica, sono considerate cose un po' tecniche da lasciare... O perlomeno ci eravamo cristallizzati, oggi un po' meno, perché vedi come le meteore passano sulla figura di Greta Thunberg. C'erano i giornali che definivano tutto ciò che riguardava l'ambiente gretinismo, con un senso di irrisione, dicendo: ma chi è sta ragazzina Asperger, strana, che ci racconta del riscaldamento globale quando stiamo qui a morire dal freddo? Ho letto anche cose del genere. D'altra parte c'era l'idolatria della figura Greta, come se fosse improvvisamente colei che ci ha rivelato quello che non sapevamo. Mi sembra tu scegli una via meno emotiva ma più razionale, più basata sui dati, non tanto sulle figure carismatiche. Ma sì, cioè Greta ha avuto il grande merito di dare, diciamo, una faccia dei temi che erano, se no, percentuali, curve di valori, eccetera, però Greta poi non, cioè, noi la raccontiamo appunto le trecce, le cose di colore, il rapporto con i genitori, ma nessuno poi ascolta quello che dice e va poi a guardare il merito della questione. E diciamo, la grande salto dell'ambientalismo, per semplificare, è che siamo passati dalla difesa del paesaggio a chiedere, diciamo, delle riforme globali, le tasse sulle emissioni, ridiscutere modelli industriali, cioè un altro livello di dibattito che richiede un altro tipo di giornalismo. Cioè, appunto, come dicevi tu, abbiamo letto tonnellate di editoriali su Greta, o di commosse penne progressiste, o di indignati finti cinici reazionari, ma poi nessuno ascoltava quello che diceva. A me ha sempre colpito quel famoso video in cui c'è lei all'ONU che dice: come osate ignorare la nostra generazione, come osate, si sentono sottofondo le risate dei potenti, diciamo, dei leader del mondo, che sostanzialmente sì, la trattano come una ragazzina, ma non la prendono sul serio. Comunque non è che parleremo solo di ambiente, però quello che è un classico tema in cui si vede, appunto, cioè io gli editoriali così spiritosi che commentano le trecce di Greta, o che appunto dicono: c'è tanto caldo, c'è tanto freddo, quindi il riscaldamento globale non c'è, ecco, quelli non li pubblico, ma secondo me, ma non perché non mi piacciono a me, ma perché secondo me non piacciono neanche ai lettori, tanto che, diciamo, i giornali che ci sono in circolazione, continuano a perdere copie, perché cioè quella cosa che offrono... ti senti dire dai, quando ti chiamano i giornali, c'è una cosa carina, fa un pezzo divertente su questa, esatto, cosa, ecco, le cose carine in questo giornale non le troverai, che sono molte volte, sì, anche le aperture di tanti giornali, perché la cosa carina diventa la cosa che richiama l'attenzione dei lettori, o che nelle parole di passo che si circola, si comincia, guarda, l'Informazione Italia comincia così, comincia da Dago Spia, purtroppo, quello è il discorso, certo, non dico purtroppo perché è divertente, ma è un sito che nasce non con la vocazione di dare là poi a tutti quelli che sono i talk della sera, le pagine dei giornali, però il giornale di un signore che ha pensato di fare dell'informazione una sua personalissima lettura interessante basata sullo sberleffo, sul retroscena, sulla presa in giro, dai là molti giornali, molte redazioni d'Italia si guarda Dago Spia, vedi questa notizia, diventa la notizia del giorno dopo, diventa l'argomento del talk serale. Sentiamo qualche ascoltatore un attimo. Piero da Trento, buongiorno. Buongiorno. Allora, il suo punto di vista rispetto a oggi, esce un nuovo quotidiano, vorrei capire dagli ascoltatori, il quotidiano fa parte delle vostre abitudini giornaliere oppure c'entra casualmente oppure non è più fondamentale? No, fa parte delle mie abitudini, è fondamentale, potendolo fare per questioni di tempo acquisto un quotidiano locale e uno nazionale. E volevo solo spezzare una freccia a favore del quotidiano cartaceo rispetto a quello online, sono due cose completamente diverse, non fosse altro che per i continui disturbi dei messaggi pubblicitari che intervengono nel mente si legge un quotidiano online, ma sono due cose completamente diverse. Insomma, la differenza è che basterebbe pagare, uno si prende la versione online di un giornale e ce l'ha senza disturbi pubblicitari, questa è un po' la differenza. Spulciando le notizie che sono gratuitamente online, è chiaro, c'è la pubblicità, perché dietro quelle notizie è gente che lavora, c'è un sistema che comunque in qualche maniera deve essere retribuito. Il passaggio sarebbe di acquistare la versione online di un giornale, sarebbe il proprio giornale in facile lettura senza interruzioni. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. 800 24 00 24, chiedo all'ascoltatore di parlarci delle loro abitudini riguardo alla lettura del quotidiano. Oggi esce Domani, frase che ancora oggi è un po' difficile da dire, ma oggi esce un nuovo quotidiano che si chiama Domani. Abbiamo in collegamento il direttore Stefano Feltri, che è uno scrittore, ha scritto vari libri di economia, ha lavorato alla Business School dell'Università di Chicago, una persona molto preparata, e da oggi c'è questo grave incombenza, difficile incombenza, ma entusiasmante compito e responsabilità di dirigere un nuovo giornale. Qualcuno dice ce ne sono già tanti di giornali, ma questo giornale, come stiamo capendo, entra in un settore che ancora non è coperto dagli altri giornali. È un giornale fatto in cui i fatti e le opinioni sono nettamente separati, ci sono delle pagine che dice questi sono i fatti, delle pagine che c'è scritto queste sono le opinioni, e poi ci sono pagine molto approfondite in cui degli scrittori danno un loro punto di vista, quindi un punto di vista alto che necessita di strumenti di elaborazione, non voglio dire particolarmente raffinati, ma ci vuole tempo, impegno e volontà di allargare il proprio orizzonte. Non è il titolo a effetto che poi può far evitare di leggere cosa ci sia scritto sotto. Sentiamo velocemente qualche ascoltatore e poi qualche domanda da fare a Stefano Feltri. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi dato questa possibilità. Bentornato, dottor Feltri. Allora, io ho letto esclusivamente... Certo, c'è un'inflazione stampata di Feltri. È il terzo Feltri sulla piazza, direttore di giornale. Non c'è problema. I Feltri, i loro bambini, i Feltrini, evitano i colpi delle porte. Senta, il giornale è bello leggerlo al parco, al bar davanti alla tazza del caffè, all'aperto. E questo ho sempre fatto nella mia vita. Adesso sono quasi cieco. Un suggerimento: corredare l'uscita di un giornale con un CD per audio, in modo che uno ascolti gli articoli. Ed è veramente eccezionale. Io con gli audiolibri ho scoperto tante tante opere. Quindi, però la versione online, se lei ha un sistema di lettura, la può ascoltare tranquillamente in un giornale. Avendo un problema con gli occhi, corredare con un CD a pagamento, uno mentre c'è il giornale davanti si ascolta il CD Per sentirselo offline, è una cosa diciamo che va un po', diciamo, conto quelle che oggi sono le tecnologie. Uno ti direbbe te lo senti online e ti puoi sentire tutto l'audio che vuoi perché col sistema di lettore lo legge, però lei dice una cosa in più, lei dice scaricandosi il PDF del suo giornale potrebbe leggerlo con un sistema di lettura comunque in ogni caso. Comunque chiederemo anche questo a Stefano Felt, sentiamo anche Andrea da Trento. Andrea, buongiorno. Caduto Andrea. Allora Stefano, vedi, tutta la maggior parte telefonate vertono proprio sulla dicotomia giornale online e giornale cartaceo. Come hai risolto, poi rispondi all'ascoltatore se vuoi, come hai risolto il problema principe di ogni quotidiano oggi? Ho una notizia, la do sull'online bruciandomela subito o aspetto sperando che nessuno me la bruci, uscire domani sull'edizione cartacea? Cioè nel bilancino dei pesi del tuo giornale, quanto l'online rispetto al cartaceo conta, quanto si pone e come si pone? Ma noi abbiamo, diciamo, siamo partiti dall'idea che tutti hanno un cellulare in tasca e che quindi tra social, Twitter, eccetera, più o meno tutti sanno cosa sta succedendo, quantomeno di quello di cui si parla, poi non è detto che abbiano informazioni approfondite. Quindi vogliamo dare, come dicevi tu prima, qualcosa in più con degli articoli che sì, magari richiedono un minimo di attenzione superiore a quella di uno scroll di Instagram, però anche su Instagram avremo informazione, e su Instagram la usiamo un po' come se fossero le notizie flash, cioè quando succede una cosa rapida la diciamo su Instagram senza stare a farci un pezzo. Per il resto noi abbiamo due livelli del sito, uno che è gratuito, in cui c'è la versione condensata degli articoli, cioè tre punti, un elenco puntato, con 600 battute, come si dice, per stare in numeri, diciamo, nostri operativi, che è la quantità di testo che sta nello schermo di un cellulare. Tutti se lo possono leggere, farsi un'idea, poi se sono abbonati cliccano e leggono l'articolo integrale. Questo sistema ci permette di puntare molto sul sito, per cui evitare che gli articoli escano solo su carta e poi vengano subito spalmati in giro dalle rassegne stampa o da Gospia, che citavi prima, che se le prende gratis senza chiedere niente, e li ripubblica per farci i suoi click. Quindi diciamo, che però ti rendi conto, dal punto di vista di scrivere il pezzo, è considerata, non ci prendiamo in giro, una gratifica. Vedi, il mio pezzo apre da Gospia e tutti contenti, certo. Vuol dire che il tuo pezzo funziona, è la certificazione, sì, che il pezzo incide. E certo, sì, lo stipendio non te lo dà, non glielo paga da Gospia, glielo paghiamo giustamente noi, e quindi certo. Questo è un grande problema, per cui noi abbiamo creato questo doppio livello apposta, per cui la versione sintetica può girare, circolare, uno ha la soddisfazione di vederla subito in giro, ma poi la parte che ha richiesto il vero lavoro è giusto che sia pagata dai lettori, anche perché non si scappa, o sei pagato dai lettori o sei pagato dalla pubblicità, e io appunto venendo a Fatto Quotidiano preferisco di essere pagato dai lettori che condizionano meno, e l'informazione gratuita fatta coi click in Italia non funziona perché siamo un mercato molto piccolo, perché parliamo italiano. E qui rispondo anche all'ascoltatore che sollevava la questione di prima dell'audio, che è un grande problema. Il problema è che nel mondo anglosassone ci sono ormai l'intelligenza artificiale di Amazon, per esempio, legge gli articoli in inglese in maniera perfetta come un essere umano, e quindi permette con un click di avere tutto il giornale in audio. In italiano non ci siamo ancora, sono delle voci robotiche. Noi nella app che abbiamo, dove si può leggere, diciamo, il giornale che anche in edicola in versione, diciamo, dal cellulare, c'è un pulsantino che legge gli articoli anche offline per il nostro ascoltatore, ma è una voce robotica finta che non dà un grandissimo piacere. Però faremo degli esperimenti comunque audio, perché il giornale richiede un'attenzione attiva del fruitore, del lettore, cioè di mettere lì seduto, leggerselo, concentrarsi, mentre la grande forza della parola parlata è che arriva in qualunque circostanza, anche mentre uno sta guidando, sta facendo altro. Quindi faremo qualche esperimento anche in quella direzione. Lo sta dicendo chi fa radio da quasi 40 anni. Io ho sempre sostenuto che oggi di imprenditore dovrebbe investire in radio. Io sono convinto, perché rimane il sistema più efficace di raccontare la realtà. Sentiamo Danilo da Brescia, buongiorno. Pronto? Danilo, l'ascolto. Buongiorno. Io sono un vecchio stimatore di Stefano Feltri, ho acquistato subito oggi il giornale Domani insieme all'altro giornale che lei non ha nominato, di cui era collaboratore prima. Il Fatto Quotidiano, è mica tabù. Lo dica lei, no, io non, sì, vabbè, ma non volevo. Ecco, cioè, non è che nominare un giornale. No, siccome ritengo, no, io sono un estimatore del giornale cartaceo, sono ritengo ce ne sono solo 3 o 4 di giornali in Italia che escano, come è noto, da giornale unico, come viene chiamato proprio dal Fatto, e tra cui spero che ci sia anche Il Domani. Quello che mi ha un po' sorpreso quando ho saputo dell'avvento di Feltri come direzione a questo giornale, mi ha sorpreso un po' il fatto che lui appunto è un indipendente, ha frequentato testate indipendenti, editorialmente, eccetera, e ora va sotto bandiera, come è noto, di un vecchia volpe dell'editoria italiana. No. Volevo vedere se faccio subito i complimenti che da una prima scorsa questa cosa di distinguere le pagine analisi da quella della cronaca sono molto, molto interessante. Però ecco, volevo chiedergli se non gli ha creato un... Domanda lecita, diciamo che Feltri nel suo primo editoriale già le risponde implicitamente, però è lì per poterle rispondere. Allora, dice l'ascoltatore, che ti conosce come vice direttore del Fatto, giornale che paventa grande indipendenza, ma in realtà diciamo in questo momento mi sembra abbastanza legato al governo più che ogni altro giornale, ma va benissimo, non ho nulla in contrario, ognuno fa quello che vuole. Dice, come mai stai sotto De Benedetti, che è l'editore di Repubblica, fa un giornale che è targato? Questo è una domanda che gli ascoltatori, che i lettori possono chiederti. No, assolutamente, una domanda più che legittima. Intanto, come dire, il Fatto è una società per azioni come quella che edita Domani, che ha alcuni azionisti giornalisti che danno garanzie di indipendenza, e anche lì ci sono alcuni piccoli imprenditori. Ovviamente lì i giornalisti hanno l'ultima parola, qui invece c'è un grande imprenditore che in questo momento ha messo il capitale e controlla il 100% della società. Ci sono due garanzie, diciamo, di indipendenza. La prima è che non ha più attività imprenditoriale, ha lasciato tutte le società ai figli, ha un patrimonio consistente che gestisce, ma come tanti, e quindi non ha degli altri business da proteggere. La seconda è che ha 85 anni, è una fase della vita in cui vuole fare un nuovo giornale perché gli interessa un giornale, non perché pensa che fra 10 anni gli servirà per fare qualcos'altro. E la terza garanzia, la più importante, è che sta creando in parallelo una fondazione in cui, dopo questa fase di avvio in cui ci vuole, come dire, uno che ci mette i soldi, che dice sì o no, eccetera, a quel punto il giornale avrà un azionista forte, che però non è una fondazione, quindi che serve solo a fare il giornale. Così, so che non vale niente perché lo dico io, che sono, diciamo, l'ultima. Sì, è l'esatta risposta che si aspettava l'ascoltatore. Sì, hai spiegato esattamente la composizione della proprietà di questo giornale e hai messo in chiaro alcuni punti. È, diciamo, una sfida di una persona che ormai ha fatto tutto nella vita, è molto anziano, ha abbandonato in realtà età, ci voglio ancora fare un giornale e vedere cosa succede. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Ringrazio Pietro Lacorte e Valentina Ternullo da Milano che mi mandano in onda, Alessandro Chiappini da Roma che si è messo in un set virtuale con il New York Times alle sue spalle, ci stiamo divertendo nel farvi vedere la radio, è una maniera così per passare il tempo, ma vediamo anche informazioni su noi che in questo momento parliamo con voi. Vedete me nella mia triste cameretta spoglia e squallido abituro, vedete Chiappini con dietro il New York Times e ascoltate Stefano Feltri che ci parla del suo nuovo giornale Domani, che da oggi è in edicola. Sentiamo Daniela da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto. Allora, io rispondo innanzitutto alla domanda generica, che è quella sulle abitudini dei quotidiani. Io amo in particolare la stampa locale, ma locale non solo della mia città, anche di dove vado, non so, in vacanza o di dove faccio un viaggio. Ah, ma l'informazione capillare, quindi lei va a cercare il giornale che racconta i fatti del luogo in cui si produce. Sì. Mi permetto, vabbè, intanto un in bocca al lupo a chi comunque comincia una nuova attività come il direttore Feltri, Stefano, e un piccolissimo appello. Io sono una persona non vedente e quindi necessariamente utilizzo la stampa digitale. Un appello ad un'attenzione, diciamo così, all'accessibilità della stampa digitale. Non in particolare ovviamente al quotidiano di cui si sta parlando adesso. Sì, però mi sembra che Feltri abbia detto, adesso le faccio rispondere, che c'è un'attenzione particolare di usare dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale, perché anche la lettura del giornale sia letta come se la leggesse una persona. Le voci, diciamo, digitali ce ne sono tante, ma una cosa è sentirlo leggere da una voce che interpreta anche bene la punteggiatura e le pause con più piacevolezza, una cosa è una voce digitale. Stefano, confermi alla nostra ascoltatrice quello che hai detto prima? Sì, noi abbiamo per il momento solo questa, appunto, la voce un po' robotica nella app, però ci stiamo ponendo il problema di come, diciamo, integrare con degli audio. La mia idea sarebbe che vedrete nei prossimi giorni dei formati in cui noi praticamente facciamo degli editoriali audio direttamente sul sito, molto più rapidi. Poi credo che ci siano delle questioni tecniche su cui non sono ferratissimo, in cui ci sono alcuni siti che sono più leggibili dai software che usano i non vedenti per fruire dell'informazione semplicemente scritta che viene trasformata in audio dai loro computer. Qui non so noi se siamo perfettamente compatibili, sì, ma lo scopriremo, insomma, è un'altra questione. Ci si lavora, però l'informazione che ho avuto, se modestamente possibile, questa mattina, che una fetta di italiani che hanno problemi di vista comunque si aspettano da un giornale anche di essere molto decifrabili. Quindi c'è tutto un terreno su cui puoi lavorare e tutta una fetta di pubblico su cui poi, naturalmente, migliorando, fornire sempre un servizio più adeguato a quello che è la loro necessità. Maria Ilia da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno. Alcune cose sono già state dette, quindi cercherò di non ripeterle. Volevo fare un'osservazione: noi compriamo sempre 3 quotidiani al giorno, uno locale, uno o Repubblica o Corriere, ultimamente più il Corriere, e stamane ho comprato Domani, gli altri giorni compriamo Il Fatto. Dunque, Domani mi è sembrata la versione, diciamo, tra virgolette, facilitata del Foglio, cioè racconta molto. C'è da leggere. Un po' più ampia perché ha maggiore foliazione. Sì, più ampia, sì. È da leggere. Quindi a noi va benissimo come terzo giornale. Le notizie le leggo sul Corriere. Comunque, a parte questo, che comunque è apprezzabile da parte mia, un suggerimento, tutti danno suggerimenti, non vedenti, capisco. Ma io cercherei di rivolgermi di più ai giovani per vedere di catturarli, per vedere di cominciare a vedere i giovani che comprano il quotidiano, quindi parlare di tematiche che interessano loro, non solo la scuola, come oggi veramente in effetti è ben presente, ma su tutto, sui loro interessi, sulla musica, cioè approfondire le tematiche che riguardano i giovani per vedere di farli leggere. Allora, Stefano Felti, grazie. Marilia, come vedi, si ripercorrono sempre gli stessi filoni: seguite i giovani, compiacete i giovani, fate un giornale interessante per i giovani. Oggi, se dovessi fare un giornale che parla il linguaggio dei giovani, non faresti Il Domani così come è strutturato. Il giornale richiede impegno, dovresti fare un giornale super facilitato, super fatto di slogan, il giornale TikTok, che non mi sembra che sia però la vocazione di Domani. Ma allora, diciamo, i giovani non è che sono più cretini degli altri, questa è un po' la cosa per cui devi parlare dei giovani, devi parlare di musica, non si capisce perché, cioè ci sono i giovani che, molti giovani con cui ho conosciuto io, sanno più dei loro genitori su temi super rilevanti, quindi magari non vogliono leggere gli stessi commentatori, non vogliono leggere con tutto l'affetto Carli della Loggia o Pane Bianco, ecco, ma non è che sono cretini che vogliono solo musica e videogame. Noi scegliamo, diciamo, differenziamo un po' i linguaggi. Su Instagram, per esempio, facciamo tutti i sabati un quiz sulle notizie della settimana, che in realtà è un modo come un altro per raccontare delle cose in una modalità più interattiva. Abbiamo fatto vari esperimenti di dirette, di cose, ma tutte cose che, diciamo, io non ballo bene, quindi non vado su TikTok, però insomma, stiamo anche su questi canali, ma secondo me è molto sbagliato pensare che i giovani non leggano i giornali perché sono disinteressati dall'attualità o al resto. Non li leggono perché sono giornali incomprensibili, sono giornali scritti da vecchi per vecchi, che parlano di cose da vecchi, di pensioni, di cose con grande sempre la nostalgia, c'è il classico pezzo di spettacoli che è, non so, il truccatore di scena che dice eravamo io, Fellini e un altro nel 72 a fare quella cosa, sono tutti fatti così, giornali. Diciamo l'effetto teche che si riverbera ormai anche nella narrazione quotidiana dei giornali, sì. Diciamo la verità, di questo bel mondo ideale. È quello che respinge i giovani, non è che i giornali sono difficili mentre loro vogliono solo delle cose. Senti, hai notato una cosa, Stefano, che oggi la televisione, che ancora viene considerato come il luogo privilegiato in cui si modella, si costruisce l'opinione, soprattutto i talk che si occupano di politica, in realtà c'è la compagnia di giro dei direttori di giornali, che alla fine sono i direttori dei quotidiani, che al di là di quello che fanno i loro quotidiani, ogni sera rappresentano il punto di forza della televisione che racconta la politica. Ecco, come lo spieghi questo rapporto? Mi sembra un po' singolare, un po' strano. La televisione ha perso una sua autonomia di giudizio. La televisione non esprime più opinione. La televisione chiama dei giornali, a seconda poi della inclinazione, del punto di vista della rete, che sono direttori di giornali, che alla fine raccontano il mondo più in televisione quanto lo facciano nei loro giornali. Ma sì, secondo me è una forma di grande pigrizia, mentre la televisione ti direbbe che serve essere prevedibili perché lo spettatore si affeziona, eccetera. Ma è molto semplice fare un talk show così, cioè metti Sallusti di destra, un altro di sinistra, non sa bene chi, forse ci saremo noi, non lo so. Hai fatto la trasmissione. No, io sono sempre stato molto contento negli anni anche al fatto in cui non sapevano mai in quale punto mettermi dello studio, perché a seconda dei temi potevo dire una cosa da una parte o dall'altra. Questo, diciamo, beh, diciamo, c'è sempre Sansonetti che per fare quello di sinistra va benissimo. Fa sempre bene. Ci sono dei direttori, ma ci sono anche dei professionisti, ormai degli opinionisti professionisti, gente che quando c'è il sottopancia con scritto giornalista, perché magari fanno giornalista così, insomma, qualche pezzo qua e là, ma fanno gli opinionisti di professione. Sì, però è vero quello che dici tu, cioè non c'è l'autonomia di costruire un racconto, cioè i giornali vengono guardati un po' con disprezzo perché raggiungono una minoranza di dare, eccetera, ma poi sono, diciamo, l'alimento base della catena alimentare dell'informazione televisiva. Si parte da un titolo del giornale, non l'articolo, perché poi non li leggono davvero, il titolo diventa la base del talk del mattino, la polemica del talk del mattino viene ripresa in una clip e diventa la base per il talk del pomeriggio e così via, insomma. Quindi mi piacerebbe fare un esperimento, fare un giornale con titoli e con tre righe di testo, poi mettere l'ore ipsum per tutto il pezzo e vedere se poi la gente se ne accorge, perché l'impressione è che si legga il titolo, l'occhiello, il catenaccio, tre righe. Faccio un esempio senza citare il giornale. Qualche tempo fa c'era un grande titolo tipo 3 miliardi per la scuola e c'erano le trasmissioni che discutevano del fatto che il governo metteva 3 miliardi, eccetera. Poi in realtà uno leggeva il pezzo ed era un sindacalista che diceva ci vorrebbero 3 miliardi, no? Quindi nessuno aveva neanche letto il pezzo. Stefano, la sigla ci taglia fuori. Spero il tuo giornale funzioni, spero di risentirti spesso per entrare in merito alle questioni che tratterai col tuo giornale. In bocca al lupo e buon inizio. Alla prossima.